le ragioni della certezza della salvezza. Sì, è un argomento che ha un sapore di orgoglio, è proprio il tema della certezza della salvezza. Primo, perché in questo mondo dove l'uomo ritiene tutto relativo, parlare di certezze è già di per sé una vanità dalla quale bisogna guardarsi. Poi perché nessuna religione, ma proprio nessuna, offre la garanzia di una sicurezza eterna. Perciò iniziamo proprio da questo ultimo aspetto. Innanzitutto il cristianesimo si differisce da ogni altra religione, proprio perché, oltre ad avere un messaggio unico, su molti aspetti offre al credente la certezza della salvezza della propria anima. Del questo chi ha posto fede in Cristo quale Dio Signore e Salvatore ha assicurazione che da quel momento, qualsiasi cosa accada nella sua vita, egli può già essere certo di andare nella beatitudine eterna al momento della sua morte. Questo rende chi testimonia della sua fede un araldo di buone notizie tali da non poter essere paragonato a nessun altro, né ritenuto presuntuoso. Quando il cristiano professa la sua fede totalitaria e radicale, non lo fa però per le ragioni che spesso l'incredulo suppone. Chiariamo subito che il cristiano non professa di essere salvato per l'eternità, perché egli si sente salvato. La salvezza di chi ripone la fede in Cristo non riposa sui suoi sentimenti, perché, come in ogni altro essere umano, i sentimenti del credente mutano di giorno in giorno. Se i sentimenti di un figlio di Dio non mutassero, egli non sarebbe una persona umana a tutti gli effetti. A dire il vero, poiché chi teme Dio è più esposto agli attacchi del diavolo, egli spesso passa da profondi scoraggiamenti a vette di gioie impensabili. Del questo nessun cristiano è certo di essere salvato basandosi sul fatto che egli si senta salvato. Inoltre il cristiano non fonda la certezza della propria eterna salvezza sulla propria convinzione di essere degno di tale beatitudine. Questo è forse l'atteggiamento più lontano in un figlio di Dio. Chi ha accettato Cristo quale suo Salvatore lo ha fatto perché ha preso coscienza di essere degno di condanna, perché lo Spirito Santo gli ha mostrato che è degno solo di essere giudicato e condannato. Proprio per questo presupposto, chi si è visto sotto i riflettori della santità di Dio accetta per grazia il sacrificio sufficiente di Cristo. Nessuno dimostra di riconoscersi indegno della salvezza quanto chi ha posto fede in Cristo. Pochi hanno compreso che porre fede in Cristo è un atto di grande umiltà, perché significa accettare prima la sentenza della massima indignità del sacrificio del Figlio di Dio. Altra ragione fondamentale è che il cristiano non crede di essere salvato per l'eternità perché qualcuno gli ha fatto il lavaggio del cervello. Secondo la parola di Dio, la certezza della salvezza non scaturisce da una propria convinzione né da un lavaggio del cervello, ma dalla testimonianza proferita dalla persona dello Spirito Santo allo spirito dell'uomo. Possiamo definire la certezza della salvezza una convinzione dello Spirito Santo o una convinzione divina, perché nessuno ha il coraggio di sostenere con la propria umana sapienza una simile convinzione. Qui non si tratta di essere convinti che domani piove o che in una discussione si ha ragione, ma si tratta di una certezza futura che non ci appartiene affatto. E poiché nessuno può essere certo del futuro, come può un essere umano incerto e limitato avere la certezza della salvezza della propria anima? Affermando di essere certi di essere già salvati o si insensati e incoscienti, oppure la testimonianza appartiene e proviene da Dio stesso. L'esperienza insegna che i cristiani, quelli veri, cioè quelli nati da Dio, sensati della saggezza che proviene dall'alto e pieni di buone opere, sono persone equilibrate a tutti gli effetti. Quindi non rimane che accettare che la testimonianza di possedere ora la vita eterna proceda dallo Spirito Santo. Il cristiano non crede di essere salvato per l'eternità neppure perché si è autoconvinto. A volte, alcuni increduli mi hanno lanciato l'accusa di credere alla certezza della salvezza della mia anima perché mi ero autoconvinto, ma la mia risposta non si è fatta attendere. Ho proposto a loro di convincersi di credere in Cristo e di essere certi di andare in cielo. nessuno, ma proprio nessuno, è riuscito ad avere una fede simile alla mia come cristiano, a meno che non lo fosse già. È vero che tutti ci siamo convinti di certe cose anche se sono sbagliate, ma questo non è possibile per quanto riguarda la fede cristiana. E poiché nessuno è in grado di convincersi di essere già salvato se non per la grazia di Dio, ancora una volta ciò dimostra che la fede di un cristiano e le sue certezze non sono di origine umana, ma divina. Molte persone religiose, specialmente nell'ambito cristiano, sarebbero ben felici di possedere la certezza della salvezza, ma poiché ricercano tale certezza per mezzo delle opere, sono continuamente nell'angoscia e, per attenuare tale stato d'animo, accusano di orgoglio chi sostiene di essere già salvato per l'eternità. Quando si invidia un avversario si arriva anche a disprezzarlo. Bisogna aggiungere inoltre che il cristiano non fonda la propria certezza di essere salvato per l'eternità sulla propria convinzione di essere migliore degli altri. Pensare di essere in fondo delle brave persone è un'idea comune che abita nel cuore di ogni essere umano, ma nessuno si rende conto di essere malvagio come colui che in età adulta diventa un figlio di Dio con una fede personale in Cristo. Una volta ottenuta la vita eterna, il credente, se è un vero seguace di Cristo, si comporta sì meglio degli altri, ma è sempre cosciente di possedere una natura corrotta come tutti gli altri uomini, e perciò prende continuamente coscienza che in lui non abita alcun bene. Se che è un dato certo, inequivocabile per un credente in Cristo, è proprio il pensiero di non poter ottenere la salvezza per la convinzione di essere migliore di tanti altri e in sintesi quindi perché se la merita. Anzi, proprio coloro che pensano di essere migliori di altri dimostrano di non possedere la vera fede cristiana. I primi cristiani non hanno mai detto di essere i migliori di tutti gli uomini, non predicavano l'Evangelo perché si ritenevano i primi della classe, ma lo predicavano per obbedienza ad un comandamento di Cristo Gesù. Lo dimostra il fatto che l'Apostolo Paolo, un uomo che certamente aveva da vantarsi più degli altri, dopo la conversione disse di essere il primo dei peccatori. I veri cristiani di tutti i tempi hanno sempre predicato non da un pulpito di santità particolare, ma come peccatori ad altri peccatori, insegnando che il cielo sarà abitato dai peggiori peccatori perduti, ma che si sono ravveduti, pentiti, e che hanno accettato umilmente di essere tanto indegni da non poter far altro che accettare che l'unico degno scontasse la condanna al loro posto. Mentre l'inferno sarà popolato da brave persone, ma che non hanno accettato la grazia offerta da Dio tramite Cristo, proprio perché mosse dalla convinzione di meritarsi la beatitudine eterna. Queste sono alcune ragioni che non inducono. Se il cristiano non ha la certezza della salvezza, perché ne è convinto, perché crede di esserne degno, perché qualcuno gli ha fatto il lavaggio del cervello, perché si è autoconvinto o perché non si ritiene migliore degli altri, come può essere certo già ora di andare in cielo alla presenza di Dio dopo la sua morte? Le ragioni possono essere tante, ma ci limiteremo ad elencarne tre, e cioè perché le promesse di Dio sono al presente, per un fattore giuridico e perché vi è la testimonianza dello Spirito. Il cristiano confessa di essere salvato per l'eternità perché crede semplicemente a quanto dice Dio nella sua parola. Quando Dio si riferisce alla salvezza eterna, le sue promesse sono sempre al presente. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24. Centinaia di volte Gesù ha detto che chi crede in Lui, cioè pone un atto di fede, che la sua opera è sufficiente per salvarlo, ha e non avrà la vita eterna. Per un figlio di Dio la vita eterna non è una cosa vaga futura, uno stato d'animo o un luogo di beatitudine, ma una persona, cioè Cristo Gesù, il figlio di Dio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. 1 Giovanni 5:11-12. Perciò avere la vita eterna significa avere Cristo Gesù, ed egli non lascerà mai coloro che gli appartengono, mai e per nessun motivo. Il cristiano confessa di essere salvato per l'eternità, perché i peccati sono stati tolti definitivamente da Cristo con la sua morte e resurrezione. Con la sua morte Gesù non ha solo compiuto un atto salvifico, ma ha reso giuridicamente innocente il colpevole. Dio non imputa più i peccati agli uomini, 2 Corinzi 5,19, e per questo chi pone fede in Cristo non è più un peccatore. L'Apostolo Paolo confessò di essere il primo dei peccatori, ma quando prese in considerazione il rapporto giuridico tra Dio e l'uomo usa il verbo giustificati, cioè reso giusto o dichiarato giusto. Quando non vi è colpa, non vi è più ragione di condanna. E non solo, anche dal punto di vista cultuale vi è questo principio. Non vi è dubbio che il culto con le sue regole le abbia ordinate Dio. Eppure, considerando il sacrificio di Cristo, la parola di Dio afferma quanto segue. Con un'unica offerta Cristo ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo, infatti dopo aver detto «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti», aggiunge «non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove ci è il perdono di queste cose, non ci è più offerta per il peccato, Ebrei 10.1.4.1.8. Per il fatto che il cristiano non offra più nessun culto per il perdono dei peccati, per il fatto che egli non esprima più preghiere di richieste per la salvezza della propria anima, significa che non è, né si considera più colpevole. Il cristiano confessa di essere salvato per l'eternità perché lo testimonia lo Spirito Santo al suo spirito. Questa testimonianza può averla solo chi ha realizzato la nuova nascita mediante l'atto di fede in Cristo quale unico e solo Salvatore. E è molto difficile per un figlio di Dio spiegare questa esperienza tra l'altro che potrebbe essere simulata da altri, ma quando la certezza della salvezza procede da un atto di fede nella dichiarazione della parola di Dio, quando per fede in Cristo si ritengono tutti i peccati perdonati, allora la testimonianza dello Spirito, quello santo, è un sigillo divino ed eterno. Contributo certezza della salvezza. In italiano sappiamo che esistono diversi tempi del verbo, il presente, l'imperfetto, il passato prossimo, il passato remoto, eccetera. Questo naturalmente accade anche nella lingua greca, sebbene uno dei tempi che compare meno frequente nel testo del Nuovo Testamento è sicuramente il perfetto, circa 1500 volte. Ma questo non significa che abbia poca importanza, anzi, alcuni studiosi lo identificano come il più importante a livello esegetico di tutti i tempi greci. Che cosa? E che lo rende così speciale. Il fatto che venga generalmente usato il perfetto, all'indicativo, è per descrivere un'azione composta nel passato, ma i cui effetti ricadono al presente. Compare poche volte, ma quando è usato, lo è per una scelta ben precisa dell'autore, e in genere non tanto per descrivere l'azione compiuta, per questo ci sarebbe l'auristo, ma per descrivere lo stato attuale delle cose che risultano da quell'azione. E, per questo motivo che spesso viene tradotto in italiano usando il presente. Facciamo un esempio di questo tempo greco in una delle 7 parole che Gesù disse sulla croce, e cioè quando disse «e», compiuto, DV 19.30. In greco abbiamo la forma «tetelestai», perfetto del verbo teleo, dal significato generale di finire, portare a compimento. Questo è un bellissimo riassunto della vita di Cristo. Gesù, e con questa parola ci viene detto che Gesù, con la sua vita e la sua morte, ha pienamente portato a compimento l'opera che il Padre gli aveva affidato. Non a caso si può dire che probabilmente la singola parola più importante di tutta la Scrittura. Questo fatto ha già per sé un'importanza assoluta, ma il tempo del verbo che viene usato, il perfetto, ci dice ancora qualcosa di più sulla morte di Gesù Cristo. La caratteristica del perfetto di descrivere un'azione compiuta nel passato con effetti sul presente, in questo caso si vede molto chiaramente. L'Evangelista Giovanni, scrivendo in greco, poteva usare il vero all'auristo, cioè etelesenk, che descrive un'azione compiuta nel passato, come se avesse detto il lavoro è stato fatto, ma qui l'Evangelista usa appositamente il perfetto per comunicarci qualcosa di più. Con il perfetto viene trasmessa una certezza ed una speranza per tutti noi. Gesù ha compiuto perfettamente il suo compito e gli effetti sul presente sono che oggi a noi ha offerto il dono di una salvezza alla quale non ci è più nulla da aggiungere, e questo dono è valido oggi e per l'eternità. Quando si legge, sta scritto, esempio MT 4.4, Rom 1.173.10, l'attenzione non è tanto sul fatto che questa cosa è stata scritta, ma che ha validità ancora oggi ed è da prendere in considerazione. Maggio 2005, Ellero.